Comunicazione multimediale, 16 gennaio, prima parte. Allora, oggi parliamo di, rapidamente, se ce la faccio, non lo so, insomma, di due questioni. La prima è quella, diciamo, degli universali linguistici. Esistono degli universali nel linguaggio, come molti filosofi e molti linguisti hanno pensato possibile o addirittura vero, o questi universali, come dire, descrivibili positivamente, cioè come delle proprietà, delle caratteristiche elencabili, non esistono, ed esiste solo una generica predisposizione al linguaggio, cioè un dispositivo, diciamo, vuoto, che viene poi riempito da regole particolari, eccetera. Adesso, insomma, vedremo come hanno affrontato i linguisti questa cosa. E la seconda cosa invece che volevo affrontare sulla base di questo libro uscito da poco in Italia, poi ci sono altri libri che hanno sostenuto tesi simili, ma questo è uscito nel 2010, insomma, di Pennisi e Falzone, che si chiama Il prezzo del linguaggio, diciamo, la questione è, insomma, questa, cioè, detta in modo un po' brutale, insomma, ma come dire, il linguaggio è totalmente o è solamente utile agli esseri umani o comporta anche dei rischi. Per esempio, il rischio, sostengono in maniera molto cauta questi due, diciamo, studiosi, addirittura di una estinzione della specie proprio in relazione ai contenuti linguistici. Insomma, queste sono le due cose di cui voglio parlare oggi e poi farla finita con lo studio, generale del linguaggio. Non si può dire che si può farla finita, ma insomma, per quanto riguarda questo corso. Allora, la questione del... allora, qui poi c'è una dispensina che ho fatto anni fa, sempre per il corso del triennio, ma che ti può venire utile pure a te, e che sono una serie di testi esattamente raccolti su questo che si chiama Principio di Relatività Linguistica. Allora, il problema che sta dietro alla questione degli universali linguistici è la questione del rapporto tra pensiero e linguaggio. La questione del rapporto tra pensiero e linguaggio ridotto all'osso può essere messa così. Può esistere, forse l'abbiamo già affrontata in qualche lezione precedente, ma adesso se la riaffronto per una volta in più non ti fa male. Insomma, può essere posta così. Può esistere un, virgolette, pensiero indipendente dal linguaggio? O messa in altri termini? Oppure non può esistere, oppure è impossibile che ci sia un pensiero indipendente dal linguaggio? Tradotto in termini un pochino diversi, forse un po' più precisi, la domanda si può formulare così. Il linguaggio è semplicemente uno strumento per tradurre, cioè per rendere comprensibili, comunicabili, verificabili, magari anche più chiare a se stessi, ma insomma, per rendere comunicabile un pensiero che è già formato in maniera antecedente al linguaggio, oppure il linguaggio è uno strumento di formazione di questo stesso pensiero? Questa è la. Adesso non affrontiamo questo problema, che è, come dire, insomma, che è un problema che non è stato ancora, diciamo, non c'è una risposta univoca da parte né dei filosofi del linguaggio né dei linguisti, eccetera, eccetera. Insomma, è chiaro che i linguisti tenderanno sempre di più a privilegiare la seconda risposta rispetto alla prima. Beh, però non è detto, insomma, nel libro di Pennisi e Falzone molti, cioè questi due autori per esempio, diciamo, registrano il fatto curioso che in molte delle teorie cognitiviste contemporanee, cioè teorie sulla cognizione, sul pensiero, eccetera, ci sia una, secondo loro, come dire, immotivata e addirittura anche sorprendente sottovalutazione del linguaggio. Compresi alcuni biologi, alcuni darwinisti o neodarwinisti, tra quelli più, virgolette, intelligenti, secondo loro, cioè quelli della scuola di Gould e di Lewontin, e i quali sostengono una serie di punti di vista, secondo questi autori, corretti dal punto di vista, però su una cosa si sbagliano, secondo loro, cioè sul fatto che non riconoscono al linguaggio questa centralità come strumento di formazione del, come dire, pensiero, o come più in generale come strumento cognitivo. Ma per quello che ci interessa a noi adesso, qualunque sia la risposta che uno dà a questa domanda, cioè il pensiero può preesistere, può esistere indipendentemente dal linguaggio oppure no, il problema a cui è immediatamente collegato questo è un problema riguardante l'universalità, cioè la possibile universalità del pensiero o del linguaggio o di tutti e due, non dal punto di vista ovviamente dell'esistenza, questa è indubbia, tutti gli esseri umani pensano, compreso Bossi, compresa gente di quel tipo lì, è un pensiero come quello, insomma. Tutti quanti gli esseri umani parlano, escluso i casi limite, escluso il ragazzo dell'Alveyron, ma insomma, cioè, il ragazzo selvaggio su cui quello lì, come si chiama, Truffaut, su cui Truffaut fece il film, insomma, però quelli sono casi limite, cioè esseri umani, esseri biologicamente umani che vengono sottratti a una comunità umana e vengono allevati o crescono in posti selvaggi senza avere contatti con altri uomini, ovvio che non sanno parlare, quindi magari ci arrivano, se lo becchi a 16 anni o 17 anni è già un po' tardi per insegnargli da zero le cose che invece un bambino appena nato può evidentemente imparare. Ma insomma, quelli sono casi veramente un po' tardi. Allora, è ovvio che, possiamo dire, il pensiero e il linguaggio sono evidentemente fenomeni universali, cioè estesi a tutta la specie umana, su questo non ci piove, ma il passo successivo invece è problematico. Pensiero e linguaggio hanno una struttura o delle strutture universali? Esiste un modo di pensare comune a tutti gli esseri umani? Esiste qualcosa al di là del fatto che pensano, esiste qualche modo, per dire, allora questo è un modo, tutti gli esseri umani la pensano così, per dirne una, il principio di causalità, nella concatenazione degli eventi che ci circondano c'è sempre qualche evento che è una causa e qualche altro evento che è un effetto, l'allargamento della mia mano che teneva un libro è la causa della caduta del libro in verticale finché non trova una superficie che lo ferma. A lungo negli esseri umani si è pensato che strutture del genere esistessero e obiettivamente è comprensibile che a prima vista, ma sì, ma è impossibile pensare senza avere un principio di causalità. Poi vai a vedere certe filosofie o certe cose orientali e ti accorgi che, per esempio, nel pensiero taoista o nel pensiero buddista, le cose non vanno sempre così, che queste strutture di pensiero, per esempio, non che siano totalmente prive di un principio di causalità, ma il loro principio di causalità è molto diverso dal nostro, non è così lineare, come dire, deterministico, eccetera, eccetera. E allora ti cominci a dire, ma allora cosa vado a vedere? Allora devo fare un piccolo passetto indietro, una piccola cosa. La stessa cosa succede nel linguaggio. Nel linguaggio, come dire, lo studio, virgolette, scientifico o insomma un po' specifico del linguaggio negli esseri umani, nelle culture umane, perlomeno nell'Occidente, è un fenomeno molto recente. prima della modernità non si può dire che ci sia una linguistica. Certo, c'è una grammatica, la grammatica e la retorica, eccetera, facevano parte degli studi della formazione sino dall'antica Grecia, da Roma, eccetera, certo. E quindi una descrizione delle regole, per esempio, in base alle quali funziona una lingua particolare, il greco, il latino, eccetera, eccetera, era già stata data nell'antichità, non è che non ci fosse. Però non c'è mai stata una, diciamo, non esiste una filosofia del linguaggio prima dell'Ottocento o del Novecento, né Aristotele né Platone. In Aristotele, Platone, eccetera, il linguaggio è sempre un dato di fatto, si dà per scontato che ci sia, si dice, si può studiare, si può scrivere una grammatica, cioè si possono enunciare le regole in base alle quali quella certa lingua funziona, che ci siano certe parti del discorso, chiamate, sostantivo, aggettivo, verbo, che ci siano delle flessioni di questo verbo, eccetera, eccetera. Ovviamente ogni lingua avrà una sua grammatica diversa, lingue non flessive come il cinese non avranno evidentemente le stesse categorie grammaticali della nostra, perché se loro non flettono nessun verbo e non coniugano i verbi, ma mettono sempre il verbo, noi diremmo all'infinito, ed è soltanto dalle paroline che gli mettono vicino che questo verbo cambia e tu puoi capire se quel verbo in quel momento indica una azione fatta da una certa persona, da chi parla, prima persona, da colui a cui al quale ci si rivolge, seconda persona, da una persona che non sia né tu che parli né quello con cui tu stai parlando, quindi è la terza persona, che sia una sola persona, tutte le normali categorie grammaticali a cui siamo abituati noi, no? Modi dei verbi, persone dei verbi, tempi dei verbi, eccetera, eccetera. Ma ogni lingua. Allora, diciamo, non si è mai posto, però una filosofia del linguaggio implicita c'è sempre stata, in qualche modo. Questa filosofia del linguaggio implicita, se vogliamo, è ben visibile nell'episodio della Bibbia della Torre di Babele. Questa storia naturalmente sai cos'è? Te lo devo raccontare? No, sappiamo tutti che cos'è. Allora, questa idea che gli esseri umani parlassero tutti all'inizio un solo linguaggio e che poi sia successo qualche cosa, Geova che si arrabbia perché questo oppure magari, come dire, processi di tipo storico, cioè adesso cambiano le cose, insomma, però non cambia dal punto di vista, come dire, strutturale, diciamo la stessa cosa, sia che Dio abbia mandato il fulmine, sia che gli esseri umani si siano sparpagliati per le terre, quindi a poco abbiano differenziato la loro lingua. La cosa importante è che dietro è, diciamo, la credenza, la convinzione che